nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Eccoci, e dopo il caffè della domenica ne prendo un altro con voi qui a Nessuna è Perfetta, il programma che da 6 anni vi racconta ogni domenica l'attualità vista da un punto di vista femminile, che cosa succede nel nostro mondo, il mondo del lavoro, il mondo della famiglia, il mondo delle relazioni. E certo che tutto questo nostro microcosmo, lavoro, famiglia, relazioni, torna a essere nuovamente shakerato. Perché? Perché in alcune regioni il lockdown torna a essere esattamente o più o meno quello che era nella primavera scorsa, in altre no, ma tutti comunque percepiamo che stiamo tornando ad avere una vita limitata. Per molti poi gli effetti della prima ondata del virus sono rimasti nelle inquietudini, sono rimasti nello stato d'ansia, e allora vorremmo provare a vedere che effetti ha avuto finora nella dimensione della vita delle donne italiane, soprattutto per loro, ma non solo per loro, questo sconvolgimento che da febbraio scorso ha veramente scaravoltato le nostre vite, tutte le nostre vite. E ne parliamo con esperti veramente molto autorevoli, e prima dei quali ci sarà, come sempre, la nostra Sunday Girl, ma è tradizione che noi cominciamo la puntata di Nessuna è Perfetta ascoltando i vostri messaggi relativi alla puntata precedente, quelli che ci mandate all'828 12 12. Buongiorno Maria, io penso che questo ritorno alla misura del lockdown, anche se in maniera, diciamo, a macchia di leopardo e non al momento, non su tutto il territorio nazionale, sia un qualcosa di sconfortante, perché comunque ci mette davanti all'evidenza che l'emergenza sanitaria non è stata superata ed è probabilmente anche lontana dall'esserlo. Per di più, una misura del genere comporta un qualcosa a cui noi difficilmente ci possiamo abituare, cioè se da una parte abituarsi al distanziamento sociale, abituarsi a delle pratiche di igiene, abituarsi anche alla rinuncia a determinati aspetti della nostra vita normale è qualcosa che facciamo tutti e che quindi è possibile, la costrizione che ci porta invece il lockdown, la rinuncia alla libertà di muoversi e di uscire da casa è qualcosa a cui assolutamente non riusciamo in nessun modo ad abituarci, perché è un qualcosa che probabilmente anche è innaturale per noi. I vostri messaggi, lo sapete, per noi sono importanti, fondamentali, 828 12 12 fondamentali per capire che cosa vi muove la puntata che avete ascoltato. E quindi vi ricordo che anche in questa puntata ci saranno tante cose che faranno riflettere, e io aspetto i vostri messaggi 828 12 12 e come sempre i vostri messaggi vocali li commentiamo poi nella domenica successiva. Ma è il momento della Sunday Girl. Ed eccola la nostra Sunday Girl, Serena Bortone alla guida ogni pomeriggio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Benvenuta Serena. Grazie, ben trovati a tutti, ben trovate e a tutte coloro che sono in linea, che ci ascoltano. Buona domenica a tutti e a tutte. Serena, tu hai il polso della situazione, perché ogni pomeriggio appunto ti colleghi con i tuoi inviati, hai ospiti. Noi questa puntata cerchiamo di capire che cosa è successo dentro le mura di casa e dentro di noi da febbraio in poi, e soprattutto che effetti avrà sulla nostra psiche, sulla psiche di donne di tutte le età, questo ritorno ai limiti, limiti che non saranno uguali per tutte le regioni, lo sappiamo, ci sono quelle rosse, quelle arancioni, quelle gialle, ma che comunque ci ricordano che il Covid è ancora con noi. La prima domanda che ti vorrei porre è, nel corso dei mesi, dalla primavera scorsa, quando tu andavi in onda in pieno Covid, ad adesso, che cosa è cambiato secondo te, nella vita delle persone, di quelle che non hanno tante ragioni di farsi sentire? Io penso che questa seconda ondata rispetto alla prima sia psicologicamente peggiore, perché diciamo noi da marzo in poi, fino a quando siamo usciti di casa di nuovo, siamo restati tutto sommato un paese unito e anche ognuno di noi nel proprio quotidiano ha pensato, pur nel sacrificio, che poi si sarebbe andati avanti, si sarebbe andati incontro però a un riscatto, a rivedere le stelle, per dirla alla Dante. Purtroppo adesso, ritrovandoci di nuovo praticamente nella stessa situazione di prima, se non nella stessa, però insomma alcune regioni già sono nella stessa situazione di 6 mesi fa, la sensazione fondamentale è di un grosso scoramento. C'è un tema economico, c'è un tema di incertezza, c'è un tema di perdita del lavoro e di prospettive, e questo genera rabbia, genera sconforto, che non è una rassegnazione cupa, direi. E uno dei segnali indicatori è, ad esempio, che si moltiplicano nelle cronache gli attacchi ai medici. I medici erano stati durante il primo lockdown il nostro fattore unificante. No, Maria, era stato la figura del personale Sì. sanitario, erano i nostri salvatori, i nostri eroi. Ogni tanto leggiamo di attacchi sui social, cupa, con una violenza non soltanto ignobile, ma anche priva di qualunque raziocinio. Quindi è come se una parte di. Come se una parte nera avesse preso il sopravvento in alcuni di noi. Tornando alla situazione più generale, c'è invece un dato che abbiamo avuto durante il primo lockdown e che speriamo non si ripeta, che è l'aumento delle violenze domestiche, perché restare in casa ci salvava la vita, ci ha salvato la vita e ce la salverà, perché dovremo continuare a essere responsabili, ahimè, temo ancora per un po', ancora per parecchio, però la casa per alcune donne può diventare un inferno. Lo è diventata, l'abbiamo visto, sono aumentate del 150% le chiamate ai centri antiviolenza, e anzi ne approfitto per ricordare l'1522, che è il numero che si può chiamare se si riceve violenza in casa. Ci fermiamo qualche secondo, Serena, e torniamo subito da te. Tutti i mercoledì a 2 di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì. Parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di 2 di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo con Serena Bortone. Alla guida di oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì sempre alle 14. Noi ci siamo anche molto interrogati, no, prima di dedicare questa puntata alla dimensione appunto anche della dark side della nostra vita. Ci siamo interrogati perché i ricercatori, i medici, i professori universitari, gli psichiatri che stanno cercando di elaborare i dati con molta fatica, perché in Italia è molto complicato, segnalano cose che turbano, un aumento, diciamo, no, dei casi non solo di violenza domestica, ma di violenza contro se stessi, un aumento esponenziale del consumo di psicofarmaci, tra i giovani un aumento del consumo di droghe. E mi sono domandata se in una condizione così speciale, così straordinaria della nostra storia, perché mai abbiamo affrontato una pandemia di queste dimensioni e che coinvolge gran parte del mondo, noi giornalisti facciamo bene a dare conto di questa dark side, oppure dovremmo piuttosto seguire una via finlandese? In Finlandia la cronaca nera è praticamente inesistente nei media, quando c'è un fatto di cronaca, soprattutto quando riguarda dei minori, praticamente viene raccontato solo se è grave e senza che si possa in alcun modo arrivare a identificare i protagonisti. Me lo chiedo per quel problema che tante volte si pone ai giornalisti, quanto è importante il diritto di cronaca e quanto invece grava anche sulle nostre spalle la responsabilità di ispirare una ripetizione a catena dei casi. Certo, un'rischiamulazione, dice, è molto vero, molto, molto saggio quello che dice, ed è un interrogativo che anch'io mi pongo spesso. Però io penso mi pongo spesso anche perché se vuoi sul Covid c'è un altro interrogativo in più che mi pongo, perché noi tutti operatori dell'informazione, soprattutto sulle reti generaliste, Rai 1, Rai 3 per me l'anno scorso, Rai 1 per me quest'anno, c'è sempre il tema del tipo di tono che si deve porre, perché tu hai la necessità di avere un tono severo. Però mentre hai un tono severo nel descrivere il pericolo nel quale siamo immersi, nello stesso tempo non puoi nemmeno gettar tutti nella disperazione, cioè c'è un tema di balance fra la severità e il rigore, e anche un po' il mostrare la paura di quello a cui andiamo, quindi anche di suscitare un sentimento come la paura, perché la paura in un caso come nella pandemia salva la vita, ovviamente, la vita tua è consapevolezza, vita degli altri. Sì, certo. Però ovviamente la paura comporta quello che dici tu poi, la chiusura, la depressione, lo sconforto. Maria, noi viviamo, la nostra generazione sta vivendo il primo vero lutto collettivo della storia, cioè i nostri padri, i nostri nonni hanno vissuto la guerra, e la guerra era peggio, Maria, perché poi sappiamo che quando interroghiamo chi la guerra l'ha vissuta era tutta un'altra cosa. Però è ovvio che questa è una sfida enorme, allora per noi, e quindi si motiva anche il fatto che si stia, che la gioia non abiti più nelle nostre case. Io ci pensavo ieri sera addormentandomi, mi hanno tolto tutte le cose belle della vita, perché le cose belle della vita per me erano la musica, il teatro, il cinema, la convivialità con gli amici. Se me le togli, nell'esistenza di ognuno di noi si è drammaticamente impoverita. Ecco, ci ho detto, tornando alla tua domanda iniziale, posto questo scenario, io penso che però il dolore vada sempre raccontato, perché aiuta a essere condiviso, cioè il dolore condiviso aiuta a una consapevolezza sul dolore e quindi lo relativizza. E io penso che invece fai bene tu a dedicare questa puntata, perché qualcuno che magari ci sta ascoltando in questo momento, che si sente come me, come tanti altri, abbattuto, avvilito, ecco, può capire di non essere solo. E quello che io dico, mi ricordo sempre una delle prime puntate che io dedicai alla pandemia, un infettivologo mi disse: ho una sola certezza, che tutte le epidemie prima o poi finiscono. Quindi anche questa, ecco, finirà, e dobbiamo ritrovare la forza nelle cose più importanti della vita. Questa è una banalità, quella che ti dico, però poi alla fine è così, negli affetti, nelle famiglie, nelle persone care, anche nella cura che mettiamo nel lavoro, perché poi proprio sotto una pandemia tutti i lavori sono importanti, tutti sono servizi. Tutti i lavori sono importanti, e soprattutto chi ce l'ha se lo deve tenere molto, certo, molto caro. E poi anche riuscire, se si può, non dico a dare delle soluzioni, non è compito dei giornalisti, ma ascoltare persone che a queste soluzioni lavorano. Per esempio, mi chiedo se lasciare tutte queste giornate nel vuoto dei ragazzi che frequentano i licei, le scuole superiori o anche i primi anni di università sia una scelta che funziona. Personalmente credo che sia stato comunque un errore. Cito sempre i paesi a noi vicini, Francia, Germania e Gran Bretagna, che le scuole superiori l'hanno comunque tenute aperte, perché comunque poi i ragazzi escono. Se devono tornare a casa con il virus e contagiare i nonni o i genitori, succede comunque, scuola o non scuola. Però questo è un altro tema che ci porta lontano. Io volevo chiederti un'ultima cosa: ma com'è fare TV in diretta, come la fai tu tutti i giorni, ai tempi del Covid? Perché appunto capita che ci sia un caso di contagio. Come vi siete organizzati? Noi ci siamo organizzati con massimo rigore, quindi poi ovviamente io ho imparato una cosa, Maria, che può succedere a tutti. Diciamo, durante la prima pandemia, no, c'era questa idea comunque che abbiamo avuto grandi parti dell'Italia non toccate. Io vivo a Roma, Roma si è chiusa prima che arrivasse l'ondata. Adesso l'ondata è arrivata già da un po' di mesi, cioè nella vita quotidiana di ognuno di noi c'è sempre, cioè ogni giorno sentiamo di qualcuno che risulta contagiato, che si è contagiato. Quindi, primo punto, questo lo dico a tutti, la cautela non vuol dire che se uno si contagia, la cautela verso sé e verso gli altri, con ognuno di noi porta avanti, non è che se poi però chi hai accanto si è contagiato vuol dire che non ha avuto cautela. Ecco, quindi no agli stigma da untori, da untrici, perché è quanto di peggio possa accadere alla nostra società. Insomma, l'abbiamo vissuta con la peste manzoniana, non deve esserci nella nostra vita quotidiana, perché viva Dio siamo cresciuti, evoluti, abbiamo studiato e abbiamo imparato le regole della convivenza civile. Primo. Secondo, si cerca di adottare un principio di precauzione, per cui a parte gli distanziamenti studio, io ad esempio, Maria, ero molto tattile nelle dirette, tu sei stata mia ospite già l'anno scorso, quest'anno spesso, ti sono grata, sì, perché hai sempre un pensiero altro che mi piace che venga condiviso sulla TV, cioè hai sempre un pensiero tuo autonomo, ti faccio questo complimento, apro e chiudo parentesi, mamma da mamma, mi piace, va bene, me lo prendo. E quindi i tuo punto di vista è sempre interessante, però io ero tattile, io ero anche una che toccava gli ospiti, perché penso che poi Serena, mettiamo in chiaro, li abbracciavi, toccava gli ospiti, così detta così sembra brutto. Lo facciamo per un sorriso, durante il, no, li toccavo nel senso che accadeva durante il, magari la foga del talk show, soprattutto sulla politica, che magari qualcuno si sbracciava, allora io li fermavo, questo facevo anche spesso, oppure se raccontavi, sì, una storia particolare dove c'era una lacrima, perché succede, fa parte della vita, magari l'ospite ti si commuove, quindi ovviamente da allungare un braccio per toccare una mano era, sì, dare un conforto. Questo mi manca nella vita reale, mi manca anche nel rapporto televisivo, perché è una forma di comunicazione che noi italiani abbiamo molto forte. Io poi sono mezza meridionale, quindi ce lo sento ancora di più, che ci è stata tolta ed è un'altra sofferenza, e questo però che devi fare? Lo e fai, poi anche nel tuo programma ci sono tutta una serie appunto di controlli, di distanziamenti tra gli ospiti, che sono necessari e indispensabili. Allora, io ringrazio davvero Serena Bortone, che ci ha condiviso con noi quello che sai che è molto, che viene dalla sua esperienza di giornalista in diretta tutti i giorni. Grazie Serena, buona domenica. Un abbraccio a tutti e a tutte, buona domenica a tutti, grazie a voi. Nessuna è perfetta. Eccoci, allora, come vi anticipavo all'inizio di questa puntata di Nessuna è perfetta e come abbiamo già un po' anticipato con la nostra Sunday Girl Serena Bortone, questi sono momenti in cui le nostre energie, la resilienza è messa a dura prova. E proprio qualche giorno fa, nel corso di un talk che ho moderato, sapete che ce ne sono tanti adesso, ma questo è stato particolarmente interessante, promosso dal Vento e Associati, un ciclo di talk resilienti, come li chiama Andrea Vento, ecco, ho avuto modo di ascoltare la fotografia scattata da due autorevolissimi esperti che vi presento, perché ho pensato che fosse molto importante parlarne anche qui a Nessuna è Perfetta. Allora presento subito Massimo Federici, professore ordinario di medicina interna, benvenuto. Grazie, benvenuto, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E Cinzia Gnolu, professore associato di psichiatria, benvenuta professore. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, vorrei fare a entrambi la stessa domanda. Leggiamo, veniamo a sapere, ce lo raccontano i farmacisti sotto casa, di un aumento del consumo di psicofarmaci. I dati che arrivano anche dal Viminale segnalano che i mesi di lockdown sono stati anche i mesi in cui le donne sono state sottoposte a una maggiore violenza domestica, atteggiamenti che si riscontrano anche nei genitori che perdono più facilmente la pazienza nei confronti dei ragazzi. Tutto questo che rischi pone ora che una nuova stagione, la seconda ondata della pandemia, si prospetta con qualche effetto già immediato, per esempio nel lockdown deciso in tre regioni, le cosiddette regioni rosse. Comincerei con la professoressa Cinzia Gnolu, poi vado subito da Massimo Federici. Sì, certamente si cominciano a riproporre delle situazioni, questo noi lo vediamo quasi quotidianamente nel lavoro con, ma non solo con le nostre pazienti che ovviamente hanno già una situazione psicologica particolarmente delicata, che ovviamente in queste circostanze rischia di avere uno squilibrio maggiore, però anche semplicemente se noi parlassimo con delle mamme che si trovano in queste situazioni in cui le scuole stanno per chiudere oppure alcune attività devono essere fatte online, loro magari ovviamente devono andare a lavorare, uno dei due deve andare, l'altro deve rimanere perché come dire c'è invece lavora in smart working e magari non c'è la disponibilità di nonni o persone perché si cerca di evitare il contatto con le persone più anziane, insomma uno scenario che noi abbiamo già visto nel primo lockdown, ovviamente non proprio la stessa cosa, però certamente come tutte le situazioni traumatiche, nel momento in cui si riattiva qualcosa anche di simile al trauma che noi abbiamo già subito, scatta l'allerta, cioè il nostro sistema di allerta comincia a funzionare in maniera molto più significativa per prepararci ad affrontare quello che potrebbe arrivare, come non potrebbe arrivare, però noi già lo conosciamo. Allora, se questo è un vantaggio, diciamo così, perché sappiamo che cosa fare, dall'altro sicuramente la scena che ho appena descritto, che quindi è una situazione molto normale, molto frequente nelle famiglie italiane in questo momento, sicuramente è un può scatenare oppure può scompensare delle situazioni di equilibrio familiare che magari tanto in equilibrio non sono, o anche se sono in equilibrio evidentemente cominciano a essere gravati da pesanti stressor personali e anche familiari in generale. Mi spiego meglio, cioè se appunto la mamma deve lavorare in presenza, per dire, perché magari fa una professione che richiede la presenza, e il papà invece lavora da casa online, il bambino deve rimanere oppure fa una parte di didattica a distanza e di didattica in presenza, si creano delle situazioni di tensione all'interno della famiglia che coinvolgono non solo la coppia, perché magari non riescono ad organizzarsi, hanno problemi effettivamente concreti di organizzazione e quindi il livello anche della, come possiamo dire, dell'aggressività può salire, che magari non è diretto necessariamente nei confronti dell'altro membro della coppia, però e poi alla fine è lì che trova un terreno fertile per potersi sfogare. La fermo per andare da Massimo Federici. Intanto, professore, volevo inquadrare un po' anche il contesto. Se non sbaglio, lei è docente in un'università e in un contesto anche romano particolare. Che fotografia? Com'è Beh, cambiata? Se è cambiata, dopo il lockdown, che effetti ha avuto sulle donne, sulle madri di famiglia, sui giovani? allora, i giovani mi sembra che siano sempre più colpiti da quella che viene definita povertà domestica, che non è necessariamente una povertà economica, anche se nel contesto in cui lavoro questa pesa molto. La povertà domestica è una povertà in cui sta cominciando a mancare il tipo di benessere relazionale e il benessere educativo. La perdita della, diciamo, della scuola, la mancanza di interazione sociale che si fa nella scuola è un fenomeno purtroppo piuttosto importante, incide poi sui ragazzi, incide sul loro comportamento, e abbiamo avuto anche giovanissimi ricoverati proprio perché probabilmente si erano persi in una situazione di lockdown e di abbandono anche da parte dei familiari, non un abbandono immediato, ma come dire un abbandono perché ognuno poi cerca di rifugiarsi dentro se stessi, Che dentro cosa situazioni. intende per povertà, per l'espressione che ha usato prima, povertà Povertà domestica. familiare, Sì, domestica, la sì, povertà che cosa intende? domestica, beh, si intende una perdita di benessere fondamentalmente, che non è un benessere economico, ma è un benessere che è relativo alla sfera educativa e alla sfera relazionale. È chiaro che in una situazione di lockdown, apparentemente chiusi dentro casa, tutti dovrebbero avere un aumento diciamo, di relazioni, però invece vediamo che questo aumento di relazioni, ce l'ha detto molto bene la collega Agnolo, in realtà si disperde. Questo, diciamo, incide molto diciamo, da un punto di vista affettivo sui ragazzi e anche sugli anziani, va detto. E poi si traduce nel momento in cui arrivano in pronto soccorso, in ospedale per problemi di salute, nell'evidenza di diciamo, un distacco che queste persone mostrano quando noi ci parliamo di fronte un po' a tutti i problemi come dire, quotidiani che stanno vivendo. Ed è come dire, una povertà che da un lato i giovani può capitare che tentino di superarla con l'abuso di sostanze psicotrope, diciamo così, mentre per gli anziani fondamentalmente c'è il rischio diciamo, dell'effetto solitudine, dell'abbandono di se stessi, e le due cose insieme, diciamo, negli ultimi 6 mesi le ho viste in tanti pazienti, quindi è un aspetto di cui bisogna tenere conto. Credo che bisogna incidere sul problema della sfera relazionale, sul far parlare le persone il più possibile, perché certamente aiuta a superare questi momenti di difficoltà. Io ringrazio davvero moltissimo il professor Federici e la professoressa Gnolu che sono stati con noi, il primo ordinario di medicina interna e la seconda professore di psichiatria. Grazie perché ci avete aiutato a vedere anche come stanno le cose, non soltanto sotto il profilo appunto del contagio, ma sotto il profilo di un contagio diverso, che è quello dell'anima e della mente, diverso ma non meno insidioso per la nostra comunità. Buona domenica a entrambi. Io ringrazio come sempre Alessandro Chiappini in regia, Gaia Romani in redazione. Grazie, noi ci ritroviamo domenica prossima, come sempre, con il caffè della domenica alle 10 e poi subito dopo Nessuno è perfetta. Ciao a tutti.